Riflettendo su queste cose, ci si può render conto di quale profonda sorgente esse possano essere di illusioni e di fantasticherie. Tale sorgente deve essere eliminata da chi vuol formare il suo fiore di loto a 10 petali, perché con quel fiore il discepolo può percepire qualità profondamente nascoste nelle anime altrui. Può però fare assegnamento sulla verità di queste sue percezioni soltanto dopo essersi del tutto liberato dalle illusioni descritte. A tal fine occorre padroneggiare ciò che dal mondo agisce su di noi. Bisogna arrivare al punto che le impressioni che non si vogliono ricevere non siano da noi in effetti accolte. Una capacità siffatta può conseguirsi soltanto con una forte vita interiore. Bisogna che la nostra volontà lasci agire su di noi soltanto le cose sulle quali è volta la nostra attenzione e ci sottragga invece dalle impressioni che volontariamente non abbiamo cercato. Dobbiamo voler vedere ciò che si vede e ciò su cui non volgiamo la nostra attenzione deve in effetti non esistere per noi. Quanto più il lavoro interiore dell'anima diventa vitale ed energico, tanto più riusciremo a raggiungere lo scopo. Il discepolo deve evitare tutte le divagazioni della vista e dell'udito prive di pensiero. Devono esistere per lui soltanto le cose verso le quali ha diretto l'occhio e l'orecchio. Anche nel massimo frastuono deve esercitarsi a non udire se non vuole udire. Deve far sì che il suo occhio non riceva le impressioni di ciò che non guarda espressamente. Come da una corazza psichica, deve essere difeso contro tutte le impressioni inconsce. In questa direzione occorre che rivolga speciale cura alla vita stessa del pensiero. Si propone un pensiero e cerca poi di pensare soltanto a ciò che coscientemente, in piena libertà, può collegare a quel pensiero. Allontana ogni altra idea. Se desidera stabilire un rapporto fra quel pensiero e qualsiasi altro, esamina attentamente donde quest'ultimo gli è pervenuto. Va anzi oltre. Se per esempio sente una determinata antipatia verso qualcosa, la combatte e cerca di stabilire con quella cosa una relazione cosciente. In questo modo gli elementi incoscienti penetrano sempre meno nella sua vita animica. Soltanto grazie a tale severa autodisciplina, il fiore di loto a 10 petali consegue la forma che deve avere. La vita animica del discepolo dell'occultismo deve essere sempre attenta. Egli deve imparare ad allontanare da sé tutto ciò che non vuole o non deve osservare. Se a tale autodisciplina si aggiunge una meditazione conforme alle istruzioni della scienza dello spirito, allora il fiore di loto, che si trova nella regione epigastrica, matura in modo giusto. E ciò che per mezzo degli organi sensori spirituali prima descritti aveva solo forma e colore, acquista spiritualmente luce e colore. Così si rivelano per esempio doti e capacità dell'anima, forze e qualità nascoste nella natura. L'aura colorata degli esseri viventi diventa così visibile. Ciò che ci attorna manifesta in tal modo le sue qualità animiche. Si ammetterà che proprio in questo campo lo sviluppo richiede la massima cura, perché l'attività dei ricordi inconsci vi è intensissima. Se così non fosse, molti avrebbero proprio il senso di cui ora parliamo, perché esso si affaccia quasi subito, non appena si acquisti davvero una padronanza sulle impressioni dei sensi, sì che esse siano soggette solo alla propria attenzione o disattenzione. Questo senso animico rimane inattivo soltanto fino a quando la forza dei sensi comuni lo conserva in uno stato attutito ed ottuso.